Incontri di Gianfranco Fabi. Me ne accorgo così da un sospiro a colazione. Non mi piace sia tu il centro di me. Niente mi porterò, solo vento tra le mani, più leggera sarò, sospesa. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno, buon pomeriggio a Michele Raucci. Buongiorno a lei. Michele Raucci ha scelto Ricomincio da qui di Malika Ayane. Perché ha scelto questa canzone? Ma perché, diciamo, mi dà un'idea di rimettersi sempre in gioco, e la vita è un momento in cui ogni azione che viene svolta richiede sempre il rimettersi in gioco. Ecco, Michele Raucci è chapter chair per l'Italia di YPO. Allora spieghiamo queste due cose: cosa vuol dire chapter chair e cosa vuol dire YPO? Chapter chair è perché il YPO è suddiviso in capitoli, e quindi io sono il presidente. È un ordine monastico, del capitolo italiano. E io sono presidente del capitolo italiano. YPO è un'organizzazione a livello mondiale che raccoglie 19.000 tra presidenti e amministratori delegati, tra alcune tra le più grandi aziende a livello internazionale, rappresenta circa 6 miliardi di dollari. Le aziende i cui presidenti e amministratori delegati sono associati rappresentano circa 6 miliardi di dollari, che è pari a circa il 7% del GDP mondiale. Ecco, devono avere una caratteristica di essere giovani, mi sembra. Devono avere al massimo 45 anni per potersi iscrivere, dopodiché possono rimanere all'interno di YPO fino a 50 anni. A 50 anni si passa ad un'organizzazione sorella che si chiama WPO, World President Organization, dove hanno la possibilità di rimanere per tutta la vita. Ecco, la missione comune è diventare migliori leader aziendali grazie alla formazione e allo scambio di idee. Sì, assolutamente. La formazione è uno dei pilastri fondamentali. Noi abbiamo varie settimane dedicate a YPO e ai membri di YPO da parte delle principali università internazionali, tra cui Harvard, Stanford, INSEAD, London Business School. Io stesso quest'anno ho fatto una settimana ad Harvard a Boston, ad ottobre sarò ad Harvard a Shanghai, e sono incontri dedicati esclusivamente a membri YPO, e quindi persone che hanno un determinato profilo di formazione, una determinata attitudine anche rispetto al conoscersi. Quanti sono in Italia, mi diceva? In Italia siamo circa una settantina in questo momento. Come si entra? Per cooptazione, per scelta, per iscrizione? No, assolutamente. Generalmente si viene presentati da altri membri, oppure ci si può anche autocandidare. Ci sono dei criteri minimi di dimensione dell'azienda che viene gestita per permettere di avere più o meno tutte le stesse esperienze. Questo è molto importante perché uno dei pilastri fondamentali è il forum. Il forum è un momento di incontro in cui tra gli 8 e i 10 membri si ritrovano mensilmente e hanno la possibilità di scambiarsi idee o anche considerazioni o chiedere consigli su tutto quello che riguarda la loro vita professionale ma anche personale. Ecco, ma chi c'è dietro? È un'organizzazione non profit, uno si chiede, ma chi c'è dietro? Chi certo. Paga? Beh, pagano i membri. I membri pagano delle quote, YPO a livello internazionale mi sembra che fatturi circa 40 milioni di dollari, e quindi tutto questo viene utilizzato per permettere di creare tutti questi momenti di formazione e di incontro. Ecco, sono 18.000 gli associati a livello internazionale. Sì, 19.000. Ecco, l'Italia è un po' agli ultimi posti. Assolutamente sì, ci sono varie ragioni per questo. Sicuramente il fatto che ci sono moltissime aziende familiari dove il papà non ha ancora lasciato la possibilità ai figli di poter avere delle mansioni, che sono appunto quelle di amministrazione stato legato di presidente, se non altro, di un'azienda del gruppo, e quindi noi non abbiamo la possibilità di associarli. Molto spesso in Italia i presidenti, gli amministratori legati hanno delle età che sono superiori ai 50 anni e quindi noi non abbiamo la possibilità di associarli. Quindi quello che noi cerchiamo anche di fare è anche di promuovere questa cultura, proprio perché all'estero ci rendiamo conto che ci sono amministratori legati bravissimi che hanno 35-36 anni. Forse perché in Italia c'è anche una cultura del merito, una cultura della professionalità che è un po' in secondo piano rispetto ad altri valori, che sono quelli un po' delle relazioni, un po' della capacità di farsi avanti magari con qualche spintone o con qualche aderenza politica? Ma diciamo che io parlo molto spesso con quelli che sono gli headhunter che nominano i principali amministratori delegati, ad esempio di alcune aziende più o meno grandi. E quello che accade è che il board che deve decidere su questa nomina, se trova una persona che ha più di 50 anni, si sente più coperto, mentre se dovesse prendere una di 35 si assumerebbe una responsabilità di cui poi dovrebbe rendere conto agli azionisti. Questo devo dire che ne dice molto dell'Italia oggi. Insomma. Questo c'è anche una responsabilità forse della scuola, dell'università, che rispetto ad altri paesi, lei ha citato appunto Harvard Business School, London Business School, università finalizzate appunto alla formazione dei manager, ci sono anche in Italia, ci sono delle differenze tra la realtà anglosassone soprattutto e quella italiana? Ma diciamo che le realtà che sono presenti oggi in Italia e che fanno formazione manageriale sono sicuramente molto riconosciute e preparano a questo tipo di attività, quindi non ritengo che sia un problema oggi della scuola, è veramente un problema ancora culturale di quello che è un po' tutto l'ambiente di lavoro. Ecco, tra le realtà che lei sicuramente conosce all'esterno, all'estero appunto, che fanno parte di questa grande organizzazione, quali vede come più dinamiche, più capaci di affrontare con decisione appunto le sfide che sono veramente grandi e certamente difficili di questo periodo di crisi, quali dalla Cina all'India o dagli stessi Stati Uniti, quali realtà manageriali giovanili sono più capaci di affrontare questa situazione? Ma oggi devo dire che ci sono dei paesi dove proprio per ragioni di carattere anagrafico non hanno la possibilità di avere manager con più di 50 anni e sono paesi tipo l'India, tipo la Cina, ma anche la Malesia, l'Indonesia. E lì devo dire la vitalità è estrema. Noi abbiamo fatto il nostro ultimo incontro internazionale a Singapore quest'anno, a febbraio, con una grandissima partecipazione appunto di indonesiani, di persone della Malesia, dalla Thailandia, e l'entusiasmo che c'è in queste aree è assolutamente straordinario. Voglia di mettersi in gioco, voglia di rischiare, voglia di creare qualcosa di nuovo. Eppure l'Italia, con la sua cultura, con la sua tradizione, con la sua capacità anche creativa, potrebbe essere un vantaggio competitivo per i giovani che vogliono essere i manager di domani. Ma sicuramente sì, quello che manca forse agli italiani è anche la volontà un po' essi stessi di rischiare. Ad esempio ci sono tantissimi italiani all'estero, io li incontro quotidianamente perché viaggio molto, che sono dei punti di eccellenza e lavorano però in aree che non sono quindi legate direttamente all'Italia, ma lavorano in aziende multinazionali, in paesi dove hanno la possibilità di contribuire molto di più di quanto non riescono a fare in Italia, proprio perché in Italia non si riesce a metterli in gioco. Quindi ecco, c'è proprio questa tendenza a cercare più all'estero che in Italia la possibilità di fare carriera in fretta? Beh, dipende. Allora devo dire che in generale, se uno va a guardare anche quelli che sono i dati di disoccupazione in Italia a livello giovanile, quello che appare è che in realtà non lo facciano abbastanza, perché dovrebbero anzi andare a cercare molto di più. Oggi ci sono delle carenze di posti di lavoro in tantissimi paesi che non riescono ad essere seguite da quella che è l'andamento demografico del paese stesso. Me ne accorgo così, da un sospiro a colazione, non mi piace sia tu il centro di me. E ancora con Malika Ayane, ricomincio da qui, riprendiamo il nostro incontro con Michele Raucci, Chapter Chair per l'Italia di YPO, responsabile per l'Italia di questa grande organizzazione internazionale, 18.000 associati, giovani, soprattutto manager, cioè esclusivamente manager di grandi società, in Italia sono una settantina. Ci raccontava, ecco, l'Italia, abbiamo detto già nella prima parte, è un po' arretrata a livello di capacità di inserire manager nelle aziende, sia per la realtà delle aziende, medio piccole imprese, per le realtà familiari delle imprese e anche per una certa realtà culturale. Ecco, cosa può fare l'Italia per smuoversi, per diventare più moderna? Cosa può fare in questa fase difficile di crisi? Che contributo può dare una realtà come YPO? Quello che accade è che, vista dall'esterno, l'Italia è un grande punto di domanda e quindi quello che YPO sta cercando di fare, ha appena lanciato un gruppo che si intitola Doing Business in Italy, a cui possono accedere tutti i membri di YPO che hanno in qualche modo una relazione con l'Italia, sia perché importano prodotti dall'Italia, sia perché li esportano in Italia, sia perché hanno attività di produzione e investimenti. Quello che i YPOer italiani fanno all'interno di questo gruppo è aiutare quelli che sono i YPOer internazionali che hanno interesse sull'Italia a capire il paese e a rendergli più semplice muoversi all'interno del paese stesso. Quindi in qualche modo avviare anche delle relazioni finanziarie, commerciali, industriali attraverso appunto questa rete, una rete di conoscenze che però può essere anche una rete di conoscenze di opportunità. Come presentate l'Italia? Quali punti di forza fate prevalere rispetto a un'immagine dell'Italia che è come minimo controversa all'estero? Io devo dire che l'Italia, ha perfettamente ragione lei, è un paese di grandissime contraddizioni e quindi quello che cerchiamo di far presente sono ovviamente queste contraddizioni che molto spesso sono semplicemente generate da non aver approfondito in maniera importante quella che è la conoscenza del panorama italiano stesso. Quello che facciamo vedere è un tessuto imprenditoriale assolutamente volenteroso di fare, che però probabilmente non ha ancora un link a livello di globalizzazione o una voglia di rischiare a livello di globalizzazione che gli permette di fare il passo ulteriore. E quindi però gli facciamo vedere che l'opportunità assolutamente esiste. Abbiamo avviato anche un'altra iniziativa in questo senso. Noi abbiamo dei network all'interno di YPO, anche di carattere professionale, a cui ciascuno aderisce a seconda di quelle che sono le proprie propensioni professionali. E uno di questi è il Deal Network, che raccoglie circa 3.200 YPO e che funziona come una sorta di Facebook e permette di scambiarsi quelle che sono delle opportunità di business all'interno dei vari paesi o di varie aziende. Quello che abbiamo fatto in Italia, abbiamo creato un momento di incontro per tutti quelli che individuano nell'Italia un paese dove voler investire. Ecco, magari anche per italiani che sono all'estero e vogliono trovare delle opportunità per tornare in Italia. Assolutamente, questo sarebbe veramente il passo decisivo. Ecco, in un certo senso i vostri associati sono persone appunto che hanno incarichi di responsabilità all'interno delle imprese, che hanno una tensione di leadership. La leadership è un elemento fondamentale anche all'interno dell'organizzazione per poter motivare le persone, per poter dare degli obiettivi, per poter mantenere poi questi obiettivi attraverso delle pratiche, strategie aziendali. Ma la leadership si insegna? La leadership, devo dire che sicuramente ha dei momenti che sono propri della persona, propri soprattutto delle esperienze della persona. Non è che si nasce con capacità di leadership. E oggi invece, dal punto di vista della formazione, di leadership se ne fa molta, perché leader vuol dire essere una persona che ha la capacità di essere un riferimento all'interno del proprio gruppo organizzativo. Questa capacità può essere assolutamente appresa e migliorata, ed è questa una delle attività su cui YPO punta. E non è soltanto leadership all'interno dell'ambiente aziendale, è leadership all'interno dell'ambiente personale, un club di cui si fa parte, piuttosto che leadership anche all'interno della famiglia di cui ecco, uno degli obiettivi, uno degli obiettivi proprio di YPO è quello di promuovere una leadership anche nella famiglia e nella comunità, quindi sì, considerate la famiglia e la realtà sociale, la realtà comunitaria come essenziali per un tessuto sociale che deve essere costruttivo e deve essere aperto appunto alle sfide. Assolutamente sì, quando ci si presenta all'interno di un ambiente, dell'ambiente di YPO, di solito si presenta anche il fatto se si è sposati o meno e quanti figli si hanno. I membri di YPO sono abbastanza noti per il fatto di avere tra almeno 3-4 figli, ma c'è gente che non ne ha quelli anche italiani 8. Probabilmente anche quelli italiani si divertono. Beh, quindi vuol dire che sono in controtendenza rispetto a una realtà sociale, perché uno dei problemi italiani è proprio quello di una bassa crescita demografica di famiglie che in gran parte si fermano al figlio unico quando ci arrivano. È così, è vero, e effettivamente c'è questa distinzione oggi. E quello che è interessante è che YPO organizza anche per le famiglie tutta una serie di attività, permettendo quindi di organizzare degli incontri tra padre e figlia, padre e figlio, madre e figlio, oppure per tutta la famiglia. Ci sono degli eventi che vengono organizzati in Sudafrica, dove si vanno a fare dei safari, piuttosto che a Disney World in Florida, che non sono semplicemente dei momenti di gioco o di svago, ma ci sono delle persone all'interno del gruppo che controllano quelle che sono le dinamiche nei rapporti tra i vari membri della famiglia e alla fine danno anche delle indicazioni su come migliorare. Ecco, lei gira molto spesso, ne ha avuto modo di accennare durante questo nostro colloquio, gira spesso per il mondo. Ecco, se dovesse a un certo punto fermarsi in qualche paese e non tornare in Italia, dove si fermerebbe? Oggi devo dire che per la dinamicità l'Asia sicuramente è una grandissima attrazione, Singapore in particolare. Ma anche per la vita quotidiana, anche per andare a fare la spesa al supermercato o andare a leggere un libro? L'Italia non ha paragoni da questo punto di vista, però se uno deve effettivamente essere costretto, perché il lavoro ovviamente ti porta anche in posti che molto spesso non sono quelli preferiti, sicuramente anche per la quotidianità Singapore è un posto. Anche per la qualità della vita. Anche perché la qualità della vita, sì, assolutamente. Beh, sì. Questa è vicino a un sacco di... si può viaggiare in posti bellissimi, quali appunto il Borneo, piuttosto che la Thailandia, anche solo per un fine settimana, oppure un viaggio più lungo in Australia, ma anche semplicemente andare al ristorante o andare al supermercato. È sicuramente. Quindi Singapore come seconda scelta. Sì. Ci sono italiani a Singapore? Moltissimi. Ci sono alcuni degli italiani di cui parlavo prima, è veramente una comunità decisamente molto attiva e oggi sta lavorando in maniera molto stretta con quelli che sono gli asiatici, soprattutto i cinesi. Ecco, come sistema paese però l'Italia fa poco per mantenere questi contatti con l'esterno. Sì, questo è vero, sicuramente altri paesi sono molto più attenti, proprio perché la volontà degli altri paesi è quella di dire: io ti formo, ti mando fuori a farti l'esperienza, ma poi dopo torni. Voglio che tu mi torni e mi generi qui il vero valore. È una logica di investimento che è sempre mancata in Italia. Basta vedere come abbiamo accumulato il debito senza alcuna logica. Normalmente bisognerebbe fare dei debiti soltanto nel momento in cui si ha qualcosa su cui investire che genererà dell'ulteriore. Oggi... far crescere il patrimonio attraverso il debito. Ecco, ma l'Italia è destinata ad essere un paese la spiaggia dell'Europa, oppure un paese post-industriale, come si dice, oppure ha ancora uno spazio, può avere ancora una capacità di essere un paese industriale, ma insieme anche un paese di qualità della vita in cui i cittadini possono essere anche i turisti a casa propria? Certo. Diciamo che secondo me dovrebbe essere a due step. Dovrebbe essere innanzitutto una fantastica spiaggia ed organizzata in maniera perfetta. Una volta che ha fatto questo e che ha dimostrato questo, allora l'Italia verrà presa veramente sul serio e allora riesco anche a fare della grande industria, mantenendo compatibilità ambientale con quella che però è una vocazione primaria che tutti riconoscono. Io devo dire anche tutti i membri di YPO che vengono in Italia rimangono sempre estasiati del paese e ritornano. Avete qualche grande evento in programma in Italia? Abbiamo fatto da poco una university a Firenze dove hanno partecipato 300 amministratori delegati e le mogli. Questo è un evento esclusivamente per coppie. E abbiamo dato la possibilità a loro di conoscere alcune persone di riferimento del panorama italiano, culturale e politico, dando quindi un'idea di quella che è l'Italia migliore. Quindi l'Italia può comunque essere un paese per il quale si possono avere delle speranze, in cui soprattutto noi italiani dobbiamo sperare. Assolutamente, noi stiamo lavorando per questo, siamo imprenditori, siamo persone che hanno aziende, industrie e vogliamo continuare a lavorare in Italia. Grazie a Michele Raucci di essere stato con noi questo pomeriggio. Michele Raucci, lo ricordo, responsabile per l'Italia di YPO, una grande realtà organizzativa che riunisce i giovani manager, i giovani leader aziendali, mirando alla loro formazione e allo scambio di idee a livello appunto globale, come globale la società attuale. Grazie a Michele Raucci, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento è per domenica prossima. Buona domenica anche oggi a tutti quanti ci hanno seguito.